America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Parliamo di nuovo di Fiat, di Confindustria, di sindacati. C'è chiaramente un problema, c'è una situazione piuttosto tesa, una posizione dura di Sergio Marchionne, un muro contro muro da parte dei sindacati. Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, che cerca di trovare una soluzione all'impasse tra Fiat e sindacati. È possibile questa soluzione, ci ha detto la Marcegaglia, perché la si potrebbe trovare in molte forme. Per esempio, e questa è, devo dire, una novità, potrebbe essere trovata nella costituzione di una NewCo che assorba una parte delle attività di Mirafiori e che dunque, essendo una entità nuova, potrebbe in prima battuta restare fuori da Federmeccanica e da Confindustria e dunque negoziare un contratto a parte nel contesto auto, senza compromettere peraltro la presenza più ampia del gruppo Fiat nel suo insieme, nel contesto dell'associazione degli industriali. Potrebbe esserci anche una uscita vera e propria di Fiat, questa sarebbe una svolta storica. Immaginate Confindustria senza Fiat, devo dire, questa mi sembra una cosa impossibile. Di tutto questo hanno parlato prima privatamente ieri sera a New York, appunto, Emma Marcegaglia e l'amministratore delegato di Fiat Sergio Marchionne. Poi però, siccome c'era una cena in corso, la cena per il Consiglio Stati Uniti-Italia, che si riunisce proprio oggi qui a New York, poi vi racconterò lunedì come è andato, è finita che non sono riusciti i due a fare dei passi in avanti proprio per questione di tempo, per cui continueranno a vedersi stamattina. E dunque la soluzione potrebbe venire, chissà, fra poche ore, addirittura fra pochi minuti. Devo dire, la vicenda resta molto intricata. Sentiamo però un momento un'altra chiacchierata che ho fatto con Emma Marcegaglia dopo quella che vi ho proposto un paio di giorni fa. Vi pregherei di prestare attenzione a due elementi che descrive la presidente di Confindustria, e cioè il fatto che vuole capire quali sono gli obiettivi, pone l'accento su un possibile problema RSU e poi fa un accenno anche al fatto che la Federmeccanica sia un'associazione democratica. Sentiamola. Se si è chiaro quali sono gli obiettivi, no? Bisogna avere chiaro gli obiettivi. Cioè, uno dice: voglio rendere governabili le aziende, giusto, come? No? Cioè, ci sono varie tipologie di questo, non voglio dire di più perché mi devo prima confrontare con lui, magari, certo, ne parliamo meglio domani. Però prima di tutto bisogna avere chiaro che cosa si vuole realmente. Cioè, c'è un problema di RSU, c'è un problema, cioè, voglio dire, ci sono vari problemi, adesso non posso dire, voglio prima parlare con lui. Allora, se sia chiaro il problema, secondo me lo si può anche risolvere molto velocemente, no? Chiaramente noi abbiamo delle regole, cioè Federmeccanica ha un direttivo, noi siamo un'associazione democratica, ha un direttivo e il direttivo deve decidere come esprimersi, no? Non è che possiamo dire si fa così e basta. Cioè, la Fiat è importante, ma abbiamo altre molte aziende metalmeccaniche. Quindi voglio dire, però io penso che se c'è una chiarezza di obiettivi e la volontà di lavorare insieme, io penso che la soluzione si possa trovare. Sì, io stasera ho delle proposte che gli farò. Potrebbe essere anche una cosa dell'auto che sta fuori per un po', intanto che mettiamo a posto le cose, poi rientra. Questa è un'altra delle opzioni su cui stiamo lavorando. Ma gli obiettivi di Marchionne sembrano abbastanza chiari da un punto di vista di rivendicazioni, o no? Guardi, gli parlo così lo capisco meglio. Dopo che gli ho parlato e lo capirò, saremo, insomma, io credo che la cosa si possa fare. Fiat, forse credo che abbia interesse anche lei a stare all'interno di un sistema di imprese, credo che gli stessi sindacati hanno interesse che questo avvenga in una cornice, diciamo, di accordi. Quindi io credo che almeno sulla carta c'è la volontà da parte di entrambi. Però ecco, ripeto, gli parlo e poi vediamo che cosa esce. Ecco, poi continuando a chiacchierare, la Marcegaglia ha detto di essere tutto sommato ottimista, insomma spera che possa sbloccarsi questa situazione, puntualizza però, dice, dobbiamo vedere fino a che punto ci si può spingere. Di nuovo ci sono evidentemente delle rivendicazioni non chiaramente esplicitate che hanno a che fare, secondo me, direttamente con il ruolo dei sindacati, con il ruolo di alcuni sindacati, soprattutto quelli più aggressivi come la Fiome. In effetti Marchionne si trova sotto fortissime pressioni da questa parte dell'Atlantico. Beh, pensate che neppure i sindacati statunitensi, che sono azionisti di Chrysler, i principali azionisti di Chrysler, capiscono perché vi sia ostinazione, soprattutto da parte della Fiome, perché poi indichiamo quelli che sono i principali responsabili che guardano all'indietro, sottolineo, a difendere parametri, ad esempio questa ostinazione a bocciare la flessibilità degli straordinari, e questo è un elemento chiave per la produttività complessiva di un'azienda, di un sistema paese. Ecco, a bocciare principi che oggi non possono non essere contemplati nell'epoca competitiva globale. Lo straordinario è un elemento chiave per la produttività e per la produttività complessiva del sistema aziendale, come nel caso della firma, anche di un sistema paese. Questi non possono, la produttività e soprattutto la flessibilità della produttività e dunque la possibilità di consentire a un lavoratore di lavorare 2-3 ore più al giorno se necessario per magari una settimana, lavorare un certo periodo di ore e guadagnare naturalmente anche di più, è fondamentale nell'era della concorrenza globale. E questo problema ovviamente in questo momento riguarda la Fiat. Devo dire, ha fatto bene Marchionne a tenere una linea dura su questo fronte, perché dobbiamo sganciarci una volta per tutte dalle rigidità strutturali che ci tengono fuori dalle grandi autostrade della concorrenza globale. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ieri il Board of Executive Clemency della Florida, cioè la commissione che ha il potere di concedere la grazia ai condannati, ha perdonato Jim Morrison dopo 41 anni da una condanna. Il cantante dei Doors era stato condannato per oltraggio al pudore, pensate il pudore degli anni 60, per essersi calato i pantaloni ed essere rimasto nudo davanti alla folla in un concerto del 1969. Poi Morrison morì 2 anni dopo, nel 71, a 28 anni, un altro eroe morto, come avrebbe detto John Lennon. E dunque dedichiamo a lui, per questo perdono postumo, la canzone di oggi dei Doors, Light My Fire. The time to hesitate is through, no time to wallow in the mire. Try now we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on baby, light my fire. Baby, light my fire. Try to set the night on fire. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!